spontanee degli ascoltatori. Quindi non è proprio una classifica. Ma che è? Oh. Il sondaggino di Gigi D'Agostino. Stai a capire? Cosa stiamo ascoltando, fratello? Siamo attenti, andiamo lenti. Numero 19, non giochiamo. Dottor Dario. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico. Ginnastica mentale. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Bella Gigiù. Bello, bello, bello questo. Bello. Mi piace. Cos'è? Why me? Artista. Dos. Minutaggio. Non pervenuto. Vabbè. Posizione numero 18. questo? Sì, sì. Numero 17. Tarantella dell'orso. Uomo suono. Show di Gigi D'Agostino e Luca Nois dal vivo questa sera, sabato 18 marzo 2006, ore 22, discoteca Roncaccio, via Milano 19, località Bizzarone, provincia di Como. Discoteca Roncaccio, via Milano 19, Bizzarone. Se non vieni sei un culo. Da Milano prendere per la Como Chiasso, uscire all'Omazzo e non fare con la faccia da chi. No, questa era per me, questo era l'itinerario per me, non c'entra niente. E niente, allora ci vediamo lì. Artista? Gigi D'Agostino. Titolo? Napoli Trip. Posizione numero? Numero 15. (Susurra)

SGH X200, il cellulare che unisce il design classico alla tecnologia del futuro. Samsung SGH X200 è un telefono tri-band con viva voce integrato che vi permetterà di parlare liberamente in qualsiasi situazione. Samsung X200, una sorpresa che non vi deluderà. Provatelo nei negozi Wind di telefonia. Samsung, that's the way I like it. Musica allo stato puro. E di nuovo su CD. Con la rivista poster Pianeta M2O. A 9,90€. Times, 15 tracce mixate. Traccia CD-ROM. E il nuovo video M2O Sleven. Il furto del codice. Se l'amore vincerà. La compilation di M2O. E nei negozi di dischi. E in tutte le edicole. A 9,90€. And selected by Provenzano DJ. So true. Wave Challenge 2006, 12 tappe, le selezioni sono iniziate. Best DJ, Best VJ, Electro Wave Challenge 2006. Dimostra di essere il migliore e vai sul palco di Arezzo Wave Love Festival. Electro Wave Challenge 2006, sabato 18 marzo, Bari, at The Flame. Martedì 21 marzo, Roma, at ACAB. Info arezzowave.com o m2o.it. Ho un problema. Dottore, ho un problema. Quando conosco uno straniero non riesco a resistergli. Mi può aiutare? Yeah. Non perdere l'occasione. Da oggi PlayStation Portable è tua a soli €249,99 con un gioco Sony a scelta. Offerta valida fino al 31 marzo 2006. Prezzo consigliato. Consigliato. È uscita Hip Hop Collection. Due CD a prezzo speciale. Tutto il meglio del hip hop di oggi e di sempre. Hip Hop Collection. M2O. Musica allo stato puro. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Musica. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Stai ascoltando The Final Countdown. Artista. Il folclorista. Posizione numero 12. riesco neanche a capire cosa significa. Fogarci via questo. Va bene. Posizione numero... Numero 11. E Luca Nois dal vivo questa sera, sabato 18 marzo 2006, ore 22, discoteca Roncaccio, via Milano 19, località Bizzarrone, provincia di Como. Discoteca Roncaccio, ci vediamo lì. Ma torniamo a noi. Artista Noise of Love. Titolo? The Only One. Numero 10. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one. You are my baby. I can feel in my heart that you need me tonight. You'll be only the one. You are my baby. I'm not afraid. A long time away, but always the same in my heart. A long time away, but always the same in my heart. Artista? Magna Romagna. Eh? Magna Romagna. Vabbè. Bella Gigi. Sì, sì. Oh, mo dai, lo davvero. Conto, eh. È questo disco qua che stai ascoltando. Semplicemente. Artista. Gigi D'Agostino. Posizione numero. Numero. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Si sente? Si sente? Sì, sì. Artista Gigi D'Agostino. Versione Gigi e Luca Tanz. Find the light and I'll say shed away. If you never, never let me go with every melody. And you hope to ever live in just my life. If you really know the target and back to my fantasy. Me too. When you need to get another, it's just a day. For a time there is a past above a human being. I'd rather like to

non giochiamo. Sabato 18 marzo 2006, l'elettro show di Gigi D'Agostino e Luca Nois. Alle ore 22, perché io comincio a suonare molto presto. Discoteca Roncalcio. Via Milano 19, località Bizzarone. Se non vieni sei un coglione. Provincia di Como. E niente, allora ci vediamo lì. È ora di finirla, sigla. Sta puntata, mo mi faccio sta cantata. C'è già sotto il mio tassista, sono Gigi il folclorista. Non ti devi rattrista, sto cammino resta qua. Ma se vuoi che io ritorni, tu fai il bravo tutti i giorni. Ogni giorno io t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto. Mo la sigla va a sfumare, perché devo respirare. Ah. Sono le 7. Avviso per gli ascoltatori. Correre in auto è un reato. Chi supera i limiti di velocità...